Abbiamo pensato di proporre questa iniziativa dopo comunque aver intercettato centinaia e centinaia di studenti e di lavoratori e lavoratrici, insomma, tramite anche i vari gruppi Facebook che ci stanno. Questo è comunque appunto un disagio che si propone ormai ogni anno a Bologna. Il problema è che ogni anno si propone in modo sempre peggiore. Abbiamo ricevuto, insomma, delle testimonianze veramente assurde. Gli studentati appunto ormai sono tutti pieni e comunque con determinate clausole e determinati prezzi. Varie persone che sono state anche in un certo senso derubate ovviamente da annunci falsi, fino ad arrivare a proprietari che promettono insieme a delle agenzie di casa, promettono un prezzo e quando lo studente poi va a vedere la casa il prezzo magicamente lievita. Purtroppo si gioca tutto appunto su delle necessità che è più che giusto che gli studenti e i lavoratori ovviamente abbiano. La città di Bologna per l'ultima volta non si trova comunque ad accogliere in nessun modo questi studenti e questi lavoratori, e ogni anno appunto propone poi in realtà quasi un target di soggettività diversa, un target che è disposto a spendere 600-670 euro per delle singole, un target che propone appunto degli studentati come il prossimo che aprirà nel 2019, lo Student Hotel, dove era appunto all'ex Telecom, insomma ci ricordiamo bene quello che fa l'ex Telecom, è appunto uno studentato che proporrà degli appartamenti e delle stanze a 700-800 euro, dove appunto incluso si avrà sauna, palestra, insomma una sorta di college in stile americano, ecco. Noi ovviamente su questo non ci troviamo assolutamente d'accordo. L'iniziativa di oggi appunto punta innanzitutto ad un'accoglienza che penso e pensiamo che questi studenti e questi lavoratori si meritano di avere. Tu dicevi che ogni anno è sempre peggio, qualcuno, ormai anche la stampa diciamo mainstream, parla di un fenomeno di turistificazione dei centri storici, cioè è anche questo il problema? In parte potrebbe essere sicuramente anche questo, insomma, ovviamente ormai è sulla bocca di tutti e lo sappiamo bene quanto Airbnb ovviamente influisce molto su questo, un po' magari anche in mancanza di regolamentazione. E è normale che appunto se dei proprietari si trovano ad avere anche un 30-40% di incasso in più tramite questo sito, le case per chi magari ha esigenza diversa, quindi di viversi insomma la città di Bologna e l'università di Bologna, appunto questo diritto, insomma questo bisogno viene automaticamente a mancare, ecco. Cosa servirebbe? Noi appunto stiamo puntando innanzitutto a cercare di intercettare un po' quali sono queste soggettività innanzitutto, e abbiamo anche riscontrato un fatto che delle persone che vengono da fuori non hanno veramente la minima idea di questo disagio che c'è a Bologna. Appunto tu prima parlavi di alcuni articoli di giornale. Questo, gli articoli di giornale che escono ogni anno a volte sono anche un po' la fotocopia di quelli che erano appunto l'anno prima. Sicuramente appunto un primo passo è quello di intercettare questa soggettività, infatti innanzitutto anche di non far sentire soli questi studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici, qualcosa che poi rientra ovviamente in un circuito molto, molto più grande, magari ecco una persona che già riesce ad accedere in un'università magari con la borsa di studio eccetera e che poi quasi arriva a non bastare per viverci, o una persona che magari appunto trova un lavoro assolutamente non a tempo indeterminato, perché anche questo è un po' il problema, ci dà per scontato questi tempi indeterminati nei contratti quando in realtà ormai non esistono più, e quindi automaticamente appunto la casa non te la danno perché la busta paga non soddisfa, perché il tempo indeterminato nel contratto non c'è. Spesso appunto vediamo anche commenti di andateci a cercare casa fuori Bologna, a parte il fatto che per assurdo fuori Bologna anche le case sono totalmente piene, allo stesso tempo non penso sia giusto, anche perché appunto Bologna, oltre per l'università rinomata, è anche conosciuta appunto per una città accogliente, quindi ovviamente pensiamo che non sia giusto che una persona debba privarsi del fatto di vivere una città, magari si va via da un paesino per andare a vivere poi in un altro paesino che sta vicino a Bologna, non ha assolutamente senso. Quindi appunto innanzitutto l'iniziativa punta un po' a questo, punta a cercare di intercettare queste persone, magari ecco anche cercare di fare video collettivi o magari di provare poi a chiamare una conferenza stampa per denunciare finalmente questo disagio nel modo in cui deve essere fatto. visto che appunto comune e università in questi anni non si sono mai assolutamente espressi direttamente rispetto a questo disagio abitativo, quasi facendo finta che non ci fosse, insomma. E allora, insomma, l'appuntamento è per questo pomeriggio 18:30 in Piazza Verdi. Esattamente, una birra in compagnia, e si dimostra appunto che insieme una soluzione assolutamente si può trovare.